E benvenuto, benvenute, benvenuti tutti. Siamo insieme ancora in diretta con Radio Lotto tutto l'anno, la radio di Non Una di Meno Milano. Questa sera in diretta ci siamo Arianna, Marta e Carlotta. Ciao a tutti. Abbiamo iniziato con un po' di carica, grazie ai like that top, scusate, come avete avuto modo di capire, sono più rallentata del solito, nonostante le nostre del maestro al campo. Va bene così, abbassiamo la prestazionalità. Mi piace. Allora. La puntata di oggi, come quella di mercoledì scorso, è immaginata e arricchita da Ambrosia, una collettiva transfemminista. E oggi possiamo iniziare a anticipare il tema? Grazie, Sì, facciamolo. Intanto grazie Ambrose, sempre grande grazie. amore. E Anticipiamo poi. il tema che è cura e solidarietà collettive dal basso. Abbiamo un sacco di cose da raccontare questa sera, un sacco di voci da ascoltare. Esatto. Con anche un'ambizione internazionale, possiamo anticiparlo. Sì, perché poi appunto la pandemia è globale, ma anche la solidarietà e la cura paiono esserlo, no, per molta fortuna. Vogliamo cominciare dando le solite coordinate, informazioni, come dire, di ordinaria emergenza. Certamente. Va bene, faccio io? Vado io? Come vuoi. Allora, intanto, come diciamo sempre, ci piace che questa puntata sia il possibile, queste puntate siano il più possibile partecipate e quindi per costruirle insieme a noi, per scriverci, per contattarci, vi lasciamo tutti i nostri contatti. Prima di tutto la mail, nonunadimenomilano@gmail.com, il nostro blog dove trovate tutti i podcast delle puntate della radio dall'8 marzo ad oggi. Il blog è nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. Poi abbiamo tutta una serie di canali social, Facebook, Instagram, Twitter, dove ci trovate come Non Una di Meno Milano o Non Una di Meno Mi, però insomma sono ottimista, ci troverete. Poi un canale Telegram, anche quello Non Una di Meno Milano. Perfetto, Perfetto, l'ho perfetto. detto bene? Quindi Benissimo. condividete idee, pensieri, tutto quello che avete voglia di condividere. Sì, ricordando che la radio è un tentativo di fare un'esperienza, è un esperimento collettivi, per cui se avete voglia di scriverci sia argomenti che vorreste che trattassimo, ma anche vostre esperienze, dediche, posta del Posta del cuore, cuore. E ci noi lo arriviamo. accogliamo. Esatto, noi accogliamo tutto, più o meno. Sì, devo dire che ci state filando poco su questo, non vorrei che fossimo vagamente minacciose. Siamo vagamente minacciose? Ma forse un po' sì. Forse un po', ma non siete timide. E forse possiamo dare degli altri contatti che possono essere importanti e utili in questo momento in cui ricordiamo non tutte le case sono un posto sicuro in cui stare. E Esatto. condivido io? Vai, vai, Ari. Ricordiamo il sito di direcontrolaviolenza.it, il numero della Casa delle Donne Maltrattate di Milano 02 5501 5519 e il numero nazionale 1522. Sì, su questo ci teniamo sempre a ricordare che sappiamo che in una situazione di pericolo e di violenza non sempre può essere facile anche solo provare a entrare in contatto con un centro antiviolenza, per questo la rete dire butta lì dei suggerimenti, se avete bisogno provate ad uscire, ad usare le uscite consentite quando andate a buttare la spesa, quando andate a buttare, sì, vabbè, scusate, quando andate a buttare l'immondizia o quando andate a fare la spesa, potete chiamare i numeri che vi abbiamo indicato ricordando sempre di cancellare la chiamata prima di rientrare in casa per vostra sicurezza. E, vai, vado anch'io? Sì. L'altro numero di, così, di pubblica utilità, l'altro contatto di pubblica utilità che ci piace sempre ricordare all'inizio della nostra puntata è quello di obiezione respinta, perché in questo momento di grave emergenza sanitaria l'aborto, già faticosamente garantito nel nostro paese, è un servizio ancora più complicato, una vera corsa contro il tempo e gara d'ostacoli. Per questo obiezione respinta ha messo in campo degli strumenti eccezionali per questa fase di emergenza: un canale Telegram, SOS aborto underscore COVID-19, dove trovate le informazioni territorio per territorio di tutti i presidi ospedalieri che garantiscono il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, e poi potete seguire obiezione respinta sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, ovviamente, o se avete delle segnalazioni, delle cose da condividere, potete scrivere alla mail obiezione.respinta@canaglie.org. E infine c'è anche un numero di telefono attivo 24 ore su 24 a supporto di chiunque ne avesse bisogno, che è il 331 96 34 889. E aggiungo solo che su Milano, se avete bisogno di appunto poter abortire, in questo momento gli unici ospedali che effettuano servizio di interruzione volontaria di gravidanza sono la Mangiagalli, il San Paolo e il San Carlo. E c'è poco da stare allegre. Esattamente, e che anzi aggiungiamo anche questo pezzetto, come non una di meno, stiamo dall'inizio di questa pandemia, ma in realtà da prima, chiedendo che sia possibile estendere l'aborto farmacologico fino al 63° giorno, come avviene in quasi tutti i paesi europei, nei paesi come civili, raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, no? Da mia cugina. O da pericolose sovversive. Esatto, e in Italia ricordo che è solo fino al 49°, ed è chiaro che in questo momento, ecco, poter magari non fare un'operazione chirurgica sarebbe bene per tutte. Assolutamente. E dopo la condivisione di queste informazioni potremmo passare a presentare le nostre super rubriche. Ah, certo. Cosa ne dite? Vai. Le nostre super rubriche. Vai, Ari. La posta del cuore e ti dedico una canzone. Allora, e qui si apre l'appello di Marta di prima: dateci retta. Fateci vostre, come dire, vostre cupide. Approfittiamo dello spazio della radio per raggiungere, come ci suggeriva Federica anche qualche giorno fa, la vicina che incrociamo sulle scale e con cui stiamo iniziando a scambiarci, non incrociamo sulle scale ma vediamo dalla finestra, iniziamo a scambiarci qualche ciao, per mandare una canzone di complicità e di solidarietà, per esempio. Sì, certo. Io poi sono anche sempre quella per l'astio, per cui se invece avete, che ne so, le guardie parcheggiate sotto al balcone e volete che gli spariamo nelle casse un messaggio forte e chiaro, noi siamo qua. Siamo disponibili. Insomma, come vedete, un'idea di dediche, di posta del cuore molto versatile. Ecco. Vale tutto. Vale tutto. In quarantena vale tutto. Però io noto che oggi la rubrica Ti dedico una canzone ha riscosso un pochino di successo. Evviva! Evviva! È tutto, come dire, autogenerato. Quindi, visto che non ci filate di pezza con la rubrica Ti dedico una canzone / La posta del cuore, questa sera abbiamo deciso che le dedichine le facciamo da sole. E quindi esatto. Io approfitterò di questo spazio pubblico per il mio bieco interesse personale e per i miei biechi messaggi d'amore personali. Ti sosteniamo. Se posso, se ne ho facoltà. Allora, io questa sera faccio un micro preambolo, giuro che non sarò troppo logorroica. Ieri sera, parto da ieri sera, c'è stata una bellissima puntata su Radio Zam, che noi consigliamo sempre di ascoltare quando non ascoltate noi, curata dalle Ribelli. E a parlare alla regia di questa meravigliosa puntata c'era la mia amata, e quindi mi sento di dedicarle una canzone questa sera. La mia amata, che è Gioia. e al di là degli scherzi e dell'amore indubbio che io provo per lei, la uso come totem simbolico e quindi le dedico una canzone che attraverso di lei vorrei che arrivasse anche intanto a tutte le ribelli e alle compagne di degenerazione che ci mancano moltissimo e che continuiamo a seguire su Radio Zam. E sempre per Voce di Gioia, questo è sempre più personalissimo e biecamente di uso di scopo personale e individuale, uso Gioia, la mia dedica Gioia, anche per arrivare al mitico Dream Team delle mie e del mio babysitter, che mi mancano tantissimo. E quindi per Gioia, che rappresenta tutto ciò, Tremenda Jauría è stanotte. Ha ha ha! E bentornate ribelli, grazie Marta per questa bella canzone un po' dedicata alla fine a Gioia, ma anche a tutte le ribelli, quindi anche un po' a noi. Io me la sono goduta molto. Sì, lo dicevamo prima fuori dalla diretta con l'augurio di tornare presto a ballare la cumbia tutte insieme. È stata una bella serata quella Zam, vero Carlotta? Molto. Io ho ancora la maglietta. Anch'io. Così, volevo dire. E ora ci Sempre avviamo. per No, scusami Marta. No, dicevo sempre per continuare a trattare la radio come se fosse il tinello di casa nostra. Tra l'altro era Ma ambiguo il sì. ho ancora la maglietta, tipo indosso ancora la maglietta. Non l'ho mai Infatti, fatta. diciamo che un altro dei grandi limiti di questa quarantena è che non possiamo più andare a mostrare le tette in delle feste pubbliche, ma solo in Torneremo una casa sua presto. che è un po' meno bello, Ma sento torneremo di presto a dire. farlo. Certo, chi se la sente ovviamente senza normatività. Va bene, E torniamo alle ritorn cose. sì, andiamo un pochino, entriamo un pochino nel merito della puntata, del tema della puntata, che avevamo appunto accennato, cure e solidarietà collettive dal basso. Iniziamo un po' a metterci le mani, abbiamo raccolto un po' di voci, un po' tante voci, voci, pratiche, esperienze. Sì, diciamo che così la cosa che ci ha mosse proprio intorno al tema della cura, cito Madù, che questa sera ci manca tanto, no? Lei lo dice sempre in apertura della puntata, radio tutto l'otto tutto l'anno, non perché siamo lavoriste, ma perché la cura, che è un lavoro H24 ed è una delle primissime, come dire, indicatori, spie, ma anche strumenti del patriarcato e dello stereotipo del genere, no? Per cui la cura tendenzialmente deputata alla donna, che appunto si fa carico del benessere del maschio lavoratore che produce e della famiglia in generale. E niente, quindi ci siamo un po' interrogate rispetto a come questa pandemia, questa quarantena può provare a scardinare questo pilastro del patriarcato e quali sono forme nuove possibili di cura, ovviamente dal basso, ovviamente indipendenti, ovviamente autonome. E non so se mentre tu presentavi molto bene la puntata si sentiva il bambino di rimpettaia a casa mia nella sua mezz'ora in cui può correre sul ballatoio e urlare. E quindi in qualche modo in un intreccio in realtà di cose che sono molto legate fra loro forse gli sono arrivati anche i suoni del mio palazzo. Sottofondo della cura. Esattamente. Quindi forse quello che potremmo iniziare a fare, se siete d'accordo, è condividere un primo contributo che abbiamo raccolto grazie appunto alle voci, alle mani, ai corpi di chi in questo momento sta mettendo in pratica delle forme di solidarietà e cura dal basso. E abbiamo un primo contributo da Remake. Non so se vogliamo ragazze dare prima i contatti di questa esperienza che ha appunto una dimensione molto pratica ed aiuto e quindi possono contatti che possono essere molto utili a chi ci sta ascoltando Ma sì, e poi far facciamolo. partire l'audio. Sì, facciamolo, dai. Allora, il progetto Non sei sola, non sei solo. Tra le varie cose offre la possibilità di aiuto ai compiti e babysitteraggio. In questo caso il numero di telefono è corretto, Marta, procedo col numero Vai, vai. 334-161-2411. Io scusate, intanto rido perché credo che mi abbiano lasciato un regalino davanti alla porta. Oddio, che Perché stanno emozione! Oh, che succedendo un bello! sacco di cose. Perché la cura non va mai in vacanza, neanche le sorprese! Sì! No. E quindi Vuoi che eravamo vada su. avanti io, Ari? Ma se vuoi andare avanti, io vado a vedere cosa mi hanno lasciato e poi ve lo Dai, così dico. poi ce Vai, lo puoi dire! vai, Dai, vai, sì, perfetto, vado. perfetto! Vai. Allora, vado avanti io, vai avanti tu, Carlotta? Vado avanti io, dai, Vai. Marta. Allora, eravamo appunto babysitter, aiuto compiti, eccetera, sappiamo che ce n'è tanto bisogno. Poi fare o portare la spesa a domicilio gratuitamente, quindi se per qualsiasi ragione non potete o non riuscite a uscire di casa, sappiamo che le spese a domicilio, quelle diciamo così commerciali, sono molto difficili da avere, quindi molto bene, qui chiamate o scrivete al 333 46 5107. Mancava un 6, ho sbagliato, forse. Manca un numero, sì. Lo ripeto, 333 46 65 107, ora l'ultima volta, 333 46 65 107. Nel caso invece voi aveste bisogno di consulenze legali o sindacali, sappiamo che ci sono datori di lavoro su cui ricadono le nostre macumbe tanto quanto su Confindustria, che mettono la gente in cassa integrazione, non rinnovano contratti, mettono la gente in cassa integrazione e poi ti obbligano ad andare al lavoro lo stesso, oppure non ti mettono in cassa integrazione ma ti obbligano ad andare al lavoro senza protezioni, eccetera. Oppure ancora eccetera. Ti mettono in ferie e sempre ti fanno lavorare comunque, poi ad agosto i figli che cazzo fai, glieli porti in ufficio a loro? Esatto, magari sì. Comunque, oltre alle nostre maledizioni, potete anche chiamare un po' più utilmente 333 1646 181. Grazie. 333 1646 181. Tornata ma alla trovate console. Tutto questo anche su tutti i social di Remake. Ecco, sì. Ari, che regalo è? Ciao Ari, quindi? Ho avuto dei biscotti. Che wow. Bomba! E con i numeri che abbiamo avuto e l'immagine dei biscotti che ha avuto il regalo, tornata alla console, direi che possiamo sentire le voci da Remake che ci spiegano un po' meglio il progetto e i servizi che condividono. Ciao, sono Zoe dello sportello Non sei sola, non sei solo di Remake e Fuorimercato. Non sei sola, non sei sola è un progetto che nasce ormai un anno fa ed è sempre stato un progetto sindacale che si occupava sia del lavoro produttivo che di quello riproduttivo e si basava sul mutualismo. In questo periodo le nostre attività hanno preso delle forme un po' differenti, perché fin dai primissimi giorni della quarantena ci siamo attivati e attivati su tre piani. Il primo piano è quello della spesa, ci occupiamo di fare la spesa per chi non può uscire di casa perché magari è nelle fasce più fragili, di chi non può uscire di casa perché magari è troppo faticoso fisicamente a causa di disabilità o altre forme di difficoltà sia fisiche che psicologiche, e ci occupiamo anche di fare arrivare una spesa del cibo a chi non si può permettere di andare a farla. Per questo siamo sia in contatto con gli assistenti sociali, che abbiamo organizzato un progetto di spese sospese, e quindi chi se lo può permettere mette qualcosa in più per far sì che anche chi non ha neppure la possibilità di fare la spesa in questo periodo abbia accesso comunque al fatto di poter mangiare, banalmente. E in secondo luogo ci occupiamo di babysitting e di aiuto compiti, questo sia perché ci sono moltissime situazioni in cui entrambi i genitori o, come spesso ci capita, in famiglie monoparentali i genitori continuano a lavorare e quindi nel momento in cui continuano a lavorare si trovano impossibilitati a lasciare le proprie figlie e i propri figli da soli. O ancora ci occupiamo di aiuto compiti perché ci occupiamo di aiuto compiti in un senso molto ampio, perché partiamo dal fatto di organizzarci per fare avere alle famiglie in cui non ci sono i computer o non ci sono le connessioni internet la possibilità di averle, così che le bambine e i bambini o le ragazze e i ragazzi possano accedere all'istruzione anche da casa, e ci occupiamo ulteriormente di aiutarli a fare i compiti. A maggior ragione per questo ci capita di essere contattate e contattati da persone che non hanno come prima lingua quelle italiane, quindi si trovano particolarmente in difficoltà a sostenere le proprie figlie e i propri figli nel processo educativo. Infine ci occupiamo di tutta quella che è la sfera sindacale, dalla parte di accesso al welfare e alle misure straordinarie che stanno venendo portate avanti in questo periodo e proposte in questo periodo, a tutta una parte invece proprio di lotta con datrici e datori di lavoro che nonostante questa fase stanno avendo degli atteggiamenti assolutamente scorretti nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. in ultimo luogo ci stiamo occupando di tutto quello che riguarda il problema abitativo, quindi persone che si trovano senza casa, rispetto a cui cerchiamo di trovare, quando riusciamo, delle soluzioni, e rispetto anche al fatto di richiedere una diminuzione dell'affitto e di richiedere l'interruzione dei mutui. Diciamo in generale che quello che facciamo cambia di giorno in giorno. Questi sono i piani di base. Ho presentato i piani di base, ma in realtà di giorno in giorno ci arrivano richieste delle più disparate, ci viene chiesto aiuto su ogni campo e ogni ambito, e allora noi lì cerchiamo gli strumenti e cerchiamo di costruire una rete di solidarietà che sia capace di rispondere anche dove non era previsto che riuscissimo ad arrivare. In questo modo il lavoro si è ampliato moltissimo nel corso di questo periodo. Non è veramente possibile individuare, come dire, degli ambiti specifici di necessità o di richieste che arrivino in questo momento, perché la verità è che questo qui è un momento che fa crollare quei pochi strumenti di resistenza che la maggior parte delle persone, noi compresi, hanno avuto fino ad oggi. Ci si ritrova in una condizione in cui si ha bisogno di tutto, veramente di tutto. Già portavo l'esempio dei computer e quello del cibo e quello della casa, ma non ci si ferma qui. Si va dal caricatore del telefono, perché si rompe e non si riesce a trovare un modo di comprarne un altro, al bisogno di anche solamente di fare due chiacchiere, di poter parlare con qualcuno, di poter dire io non ce la faccio più da sola. E allora da lì il nome che, come dire, che abbiamo scelto tempo addietro, ma che oggi si riconferma nella sua precisione, cioè il nome di Non sei sola, non sei solo. Quindi è difficile identificare delle problematiche specifiche, semplicemente perché le problematiche specifiche sono a 360 gradi. È sempre più esasperata la difficoltà, la fatica e l'impossibilità di arrivare alla fine, non del mese, ma della giornata, rimanendo da sole e da soli, alla necessità di stare in rete. A questo proposito, quello che stiamo trovando straordinario è il numero incredibile di volontarie e di volontari, ma soprattutto ci tengo a rimarcare di volontarie che si stanno muovendo per portare tutto quanto il supporto. Il numero di persone che ci contattano perché hanno una difficoltà e poi magari si mettono in rete con noi per rispondere ad altre difficoltà o per aiutarci nel caso si presenti qualcun altro che ha la loro stessa, ma avendo ormai assunto un pochino di esperienza su come fare, allora ci riescono a dare una mano e a prendersi in carico chi ha esattamente il loro stesso problema, proprio in quella dinamica di mutualismo di cui dicevo prima. Per quanto riguarda il futuro, sicuramente facciamo fatica a guardarlo e a immaginarlo. Facciamo fatica a guardarlo e immaginarlo perché ci aspetta una crisi economica senza precedenti, ci aspetta il fatto di essere messe in delle condizioni ancora peggiori di quelle in cui ci troviamo oggi ed è difficile immaginarle, ancora più difficile immaginarle se partiamo dalle nostre personali e se stiamo su quelle di chi ci chiama e di chi ci contatta per avere delle risposte a dei problemi veramente che prendono ogni ambito della vita. Ma quello che è certo è che qualunque sia il futuro che ci aspetta, qualunque sia il domani che ci aspetta, la rete di contatti, di solidarietà e di mutualismo che si sta venendo a creare oggi è quello che ci può permettere di vivere anche domani e che ci può permettere di mettere delle basi solide su cui riuscire a intravedere un modo per arrivare alla fine della giornata. Non grazie a chi ci ha portate e ci ha portati ad essere in una condizione economica, oltre che appunto al di là di quella sanitaria, in una condizione economica come questa, ma appunto basandoci su di noi. E bentornate, bentornato in diretta, grazie infinite a Zoe per il suo contributo e per il progetto e anche averci ricordato che quello che costruiamo ora ha un effetto anche su quello che sarà domani. Sì, questa è una delle cose, ma un po', come dire, io sono molto, molto felice, banalmente, che questa città sia stata capace, come dire, non solo di produrre le conferenze stampa di inaugurazione dell'ospedale più vergognoso di tutti i tempi, ma anche dal Stiamo basso una inaugurando il risposta. momento sbrocco, Marta? No, no, no, è chiuso qui, scusate, volevo solo dire che invece sono molto felice che la nostra città sia stata capace di produrre così tanto, di generare così tanto. E basta. Solo questo volevo dire, e questo insomma stasera lo sentiremo perché abbiamo tantissimi contributi dalla città, poi anche da altre città europee, ma soprattutto da Milano, dove si sta veramente muovendo tantissimo, e speriamo che questo resti patrimonio sul futuro, no? Un nuovo modo di Esatto. intendere la cura. Intanto ci tenevo a fare questo, che non so se si è sentito, Yeah! ma volevo farti intinnare il mio cocktail, perché la quarantena non mi ridurrà mai alla adesso la stemmia. E Scusate. su questo siamo pronte a far partire il prossimo contributo, Marta e Carlotta. Esattamente, un altro contributo che arriva da un altro degli spazi occupati della nostra città e anche su questo magari, insomma, visto che stanno uscendo un sacco di belli articoli che dicono com'è bella la solidarietà, magari ricordarselo anche dopo che arrivano Sì, è un po' che non ci rivolgiamo al nostro sindaco, se non Ciao sbaglio. Beppe, Ciao, ciao. ciao Beppe, volevamo ricordarti che siamo sempre noi, cioè quelli che sgomberi come se non ci fosse un domani normalmente, e che in questo momento te stiamo a mettere le pezze al culo, per dire, così, per Comunque, dire. sempre grazie e se puoi ricordartelo. Ossequi. E quindi questo contributo ci arriva dal cantiere che ha messo in piedi un'altra esperienza di aiuto e solidarietà dal nome Staffette. Ciao a tutte, tutti e tutto. Un saluto dal cantiere e dallo spazio di mutuo soccorso. Innanzitutto grazie a Nonuna di Meno per la compagnia che ci tiene arrivando nelle nostre case con la radio Lotto tutto l'anno. La solitudine non ci avrà, nonostante l'isolamento. Isolamento, alienazione, uno stile di vita insostenibile non sono novità della quarantena. L'emergenza però esaspera tutto. Lo spazio di mutuo soccorso è nato a Milano 6 anni fa proprio per sperimentare forme di vita comunitaria e solidale, un mondo diverso possibile, in cui le vulnerabilità diventano punti di forza comune. Nessuno è sacrificabile, nessuno è solo. Così vivremo bene, è il grido di battaglia e l'invito che da Piazza Stupari ci abbiamo lanciato a tutta la città. Moltiplichiamo solidarietà e mutuo soccorso. Come? Per esempio incoraggiando lo scambio, il riciclo e il riuso, come fa il progetto di Crysap, sperimentando forme di espressione e linguaggi nelle botteghe artistiche e nella serigrafia Rebelware, condividendo saperi come fanno l'Università Popolare, la scuola Abba Abdul Ghibre di italiano e di lingue e la libreria Don Durito. Oppure mangiando genuino e riducendo l'inquinamento prodotto dalla grande distribuzione grazie al GASP, il gruppo di acquisto solidale popolare. Oppure ancora facendo sport e socialità senza spendere un patrimonio alla palestra popolare Hurricane. Crediamo che ci sia sempre bisogno di mutuo soccorso, di stringere alleanze. Crediamo che ora questo bisogno sia più forte che mai. Il mutuo soccorso non va in quarantena e i progetti si stanno ristrutturando per continuare nei limiti del possibile le proprie attività. In particolare oggi vorremmo presentarvene due. Staffette del Mutuo Soccorso invece sono un'iniziativa attuata insieme al gruppo di acquisto solidale e popolare di SMS. Il progetto risponde al nostro bisogno, ma scommettiamo anche di molte altre, di non rinunciare a compiere scelte di vita partigiana anche in quarantena. Per esempio, finendo come scelta obbligata nelle maglie della grande distribuzione dell'e-commerce che sfrutta lavoratrici, lavoratori e inquina il pianeta. E le staffette sostanzialmente sono ragazze e ragazzi che con lo slogan Pedaliamo contro il virus e Difendiamo solidarietà portano a casa di chi non può, non vuole uscire una spesa genuina a chilometro zero per tutte le tasche con i prodotti del GASP. La P per noi è molto importante perché significa garantire il diritto per tutte a mangiare sano. Oltre ad aiutare le persone in quarantena, le staffette sono un modo per non abbandonare piccoli produttori locali, provati come molti altri imprenditori autonomi dalla quarantena, ma anche dai cambiamenti climatici che quest'anno stanno mettendo a dura prova le colture. Le staffette possono anche consegnare libri usati e nuovi provenienti dagli scaffali della libreria Don Durito e rigorosamente scelti dai cataloghi delle case editrici indipendenti che vogliamo sostenere. Insomma, le staffette consegnano cibo per il corpo e per la mente. Ci sono molti modi per partecipare al progetto. Il primo e più diretto è pedalare insieme a noi. Ogni venerdì proponiamo una formazione legata alle precauzioni sanitarie per effettuare le consegne in sicurezza. Per diventare una staffetta basta scrivere alle pagine social del Centro Sociale Cantiere e dello Spazio di Mutuo Soccorso e si verrà presto ricontattati. Il secondo modo per partecipare è lasciare a disposizione una spesa in sospeso al GASP. Basta scrivere una mail a gasp.sms@gmail.com indicando i prodotti scelti. Si verrà ricontattati per organizzare la spesa. Il terzo modo è preparare un pacco alimentare solidale. Quando fai la spesa per te o per la tua famiglia, acquista qualche prodotto in più e poi iscrivi a paccosolidale@gmail.com. E una staffetta passerà a ritirare il pacco e lo consegnerà a qualcuno in difficoltà economica. Il quarto suggerimento è adotta un operatore sanitario. Mettiti cioè a disposizione per portare la spesa richiesta da un operatore sanitario impegnato full time in prima linea. Le staffette, insomma, sono un invito e una pratica a non lasciare nessuno indietro. Da ognuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i propri bisogni. Insomma, come diceva già qualcuno. Il secondo progetto che vogliamo presentare è quello dello sportello di orientamento. Se in questo momento di emergenza e confusione hai bisogno di una mano, ma non sai a chi rivolgerti, scrivici, è l'invito. Vivi un'emergenza sanitaria o emotiva? Hai subito violenza? Hai bisogno di qualcuno che ti porti la spesa o i medicinali? Cerchi informazioni legali, sindacali, per i tuoi documenti, per il reddito, per abortire? Hai bisogno di consulenza su casa, affitti, sfratti o mutui? Lo sportello offre la possibilità di orientarsi tra servizi e sportelli attivi sul territorio. Basta scrivere un messaggio al numero 333-8844-166. Nella lingua che si preferisce. Lo sportello legge e risponde nella lingua preferita da chi vi si rivolge, in particolare italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, ma ce ne sono molte altre disponibili perché il gruppo che anima il progetto è meticcio come la nostra città. Tra gli aspetti peggiori di questa quarantena infinita c'è sicuramente la sua tremenda capacità di limitare la prospettiva. Ecco, questi progetti rispondono alla domanda: come portare avanti scelte di vita partigiana e continuare a costruire comunità ribelli e mutualistiche? Non sono novità, quindi, ma ristrutturazioni. Se è difficile immaginarci il futuro, faremo tutto il possibile perché abbia la forma della resistenza e della solidarietà, che non sono mai andate in quarantena. Trovate tutte le informazioni e i contatti sul sito www.cantiere.org e www.cantiere.org/sms. Qui potete anche fermarvi qualche tempo a leggere, ascoltare e guardare lo speciale multimediale Orientarsi nella nebbia, che raccoglie interviste e contributi che aiutano a far luce sui diversi aspetti della nostra vita e del nostro mondo in trasformazione in questi tempi incerti e complessi. Un abbraccio a tutti! I'm not so E bentornate con i The Lunatics, Say What You Mean, e grazie mille anche al contributo di prima. Eccoci, tornate. Allora, torniamo a parlare della solidarietà in città, stiamo parlando sempre di Milano e abbiamo così lanciato l'ultimo contributo con un improprio contro il sindaco di Milano perché, come dire, non possiamo non considerare che tutta questa solidarietà attiva che sostanzialmente sta supportando tutte le persone vulnerabili in città arriva dal basso, dagli spazi autonomi, occupati, autogestiti, che tanto sono normalmente vituperati dalla retorica, dal discorso pubblico, sia istituzionale che anche dei media, no? Per cui fino a ieri mattina mostri a tre teste, da oggi salvatori e salvatrici del mondo. Benissimo. Su Milano sostanzialmente abbiamo già sentito l'esperienza di Remake, poco fa quella del cantiere, ora andiamo a sentire una serie di altre esperienze che, come dire, possiamo ricondurre e all'esperienza delle brigate volontarie delle brigate volontarie per l'emergenza, scusatemi, mi ero perso un pezzo, che appunto sono attive su tutte le zone della città, facendo tutta una serie di servizi, di spesa, supporto, pasti caldi, e dal progetto Aiutarci Milano, che ugualmente, no? Attraverso un numero di telefono a disposizione di tutte e tutti, garantiscono tutta una serie di servizi che poi adesso nel corso della puntata scopriremo più nel dettaglio. Mandiamo il contributo e poi diamo i contatti? Sì, assolutamente. Adesso sentiamo, poi lo racconterà meglio, il contributo di una delle 10 brigate che stanno supportando la nostra città, il contributo della brigata Elena Madotti, base operativa Centro Sociale Lambretta, e poi torniamo in diretta e diamo tutti i contatti. Perfetto. Ciao a tutti e tutte, sono Nassi della Brigata Elena Modotti, operativa da diverse settimane in zona 2 e in zona 3. Assieme a molti spazi sociali e collettivi conosciuti da anni nella città, offriamo servizi di spesa a domicilio per anziani, di preparazione di pasti caldi per persone che non hanno un reddito e persone senza un tetto, ed è una raccolta di spesa solidale che riceviamo a Lambretta e distribuiamo alle famiglie in difficoltà. Non è un lavoro di mero assistenzialismo, ma un lavoro di pubblica utilità. Siamo infatti compagni e compagne che hanno deciso di mettersi in ballo, come sempre hanno fatto, nel tentativo di rompere l'isolamento degli indigenti, di sostenere chi oggi, nella metropoli milanese, rischia di morire di fame. Siamo 10 compagni, col sostegno di tutta la struttura, che hanno deciso di vivere in autoquarantena dall'inizio di questo periodo, di questa emergenza sanitaria, di vivere appunto all'interno del centro sociale Lambretta con un sostegno di dottori e infettivologhe, tutte compagne che ogni giorno ci sostengono e ci consigliano su come meglio continuare a perfezionare questa convivenza insieme. Viviamo ognuno in una stanza senza entrare quasi mai in contatto e siamo il centro operativo, la segreteria operativa del lavoro che svolge la brigata Elena Modotti, un lavoro che arriva fino a diversi quartieri della città e che porta cibo a persone che non hanno documenti, che non possono uscire di casa per diversi motivi o, come dicevo, persone che una casa non ce l'hanno. Noi abbiamo deciso che la crisi di questi tempi ha evidenziato ulteriormente come a pagare per primi per l'inefficienza dello Stato siano stati i poveri, le persone senza tetto, i detenuti e le detenute. Persone che appunto non arrivano a fine mese, persone che non possono garantire ai figli un computer per seguire le lezioni. Ci sono chiaramente le donne obbligate a convivere con i loro aguzzini in assenza di strutture più sicure. Come compagni e compagni di questa città ci siamo sempre stati, oggi ci siamo e domani ci saremo per risollevare questa città da questa crisi sanitaria. Ma più di tutto per chiedere un reddito di quarantena per tutte le persone che vivono su questo territorio. per chiedere che vengano assegnate tutte le case vuote, per chiedere un'amnistia e fianco a fianco alle compagne di Nonnuna di Meno, per chiedere giustizia sociale, economica e di classe per ogni donna ancora in catene. Bentornate, grazie mille alla Brigata Lena Madotti e ora diamo qualche contatto. Allora, appunto, brigate volontarie per l'emergenza o Aiutarci Milano per cercarle, diciamo così, nei social, però invece proprio per quel che riguarda la brigata Lena Modotti, di cui abbiamo appena sentito parlare, per donare cibo o piatti o invece per richiedere il servizio potete telefonare allo 02 40 70 55 6, ripeto, 02 40 70 55 6. Se invece avete voglia di diventare volontari e volontarie, potete scrivere una mail a volontari-lenamodotti@cslambretta.org. Come dici tu i contatti, Carlotta? Lo so che lo dico comunque delle sempre, skills, lo so che lo dico sempre anche a Fede, però che emozione. Ah, vabbè, ma noi stiamo qui facendo tutto un lavoro per superare la gelosia e quindi, come dire, non mi arrabbio che lo dici anche a Fede. Ecco. Ora iniziamo a darci un tono internazionale. Sì, ce la tiriamo un po' Ci adesso. attiriamo un po'. Ci diamo un tono internazionale però, come diceva Carlotta all'inizio, con ben presente il fatto che ci sia un legame molto stretto e una relazione molto stretta fra i territori, seppure i territori stiano vivendo esperienze in parte anche molto differenti, ma le forme di solidarietà dal basso, si sviluppano, si moltiplicano, in differenti posti. E in particolar modo ora andiamo verso la Francia e facciamo tappa a Parigi per parlare di un progetto che è in stretto rapporto con le brigate e si chiamano le Brigades de Solidarité Populaire de Paris. A Parigi in particolar modo abbiamo il Comité de Solidarité de Paris e mi scuso se sto facendo degli errori sui nomi dei progetti e perché ora mi avvio a fare una cosa complessissima in cui devo usare le mani insieme al cervello. E sei bionda, volevo Sono bionda ricordarlo. per chi non lo sapesse e quindi oltre alla tecnica dovrò provare a connettere dei neuroni e quindi chiedo da subito L'aiuto da compassione. casa. Compassione. Che è un po' Noi ti risponderemo con dell'amore, invece, molto amore. Perfetto. Allora, sostenuta dal vostro amore con questo appello alla compassione, lancerei il primo contributo delle Brigate di Facciamo. Solidarietà parigine. Sì, Sì, dici, scusami, Marta. Ari, volevo fare solo una premessa. Il contributo ovviamente è in francese, perché questi di Parigi sono, e ve li mandiamo man mano, però poi torniamo in diretta e ve li traduciamo, così, per massima comprensione possibile. J'ai vraiment pas l'énergie pour écrire. Du coup, quel type d'aide offrez-vous? Bah, du coup, on essaye de s'adapter au secteur local dans lequel on intervient. On a pour l'instant 5 brigades différentes et en fonction des lieux et des demandes, on s'adapte. Donc ça va de la livraison de repas pour les personnes les plus fragilisées, qui sont à la rue, ou à l'aide aux devoirs pour des enfants qui n'auraient pas de parents francophones ou un ordinateur ou les outils pédagogiques pour faire le suivi pédagogique. On fait également des permanences pour récolter donc des denrées de première nécessité pour les foyers où sont présents des gilets noirs, parce qu'on a un travail politique avec les gilets noirs depuis un moment. Et voilà, a priori, voilà, on récolte aussi du matériel de protection pour les travailleurs. Donc, que ce soit les livreurs, les soignants, les éboueurs, les caissiers, on essaie de diversifier les aides qu'on propose et du coup inscrire toutes nos démarches de solidarité dans une perspective politique. E grazie mille intanto a loro per il primo contributo che mi sento di riassumere proprio molto velocemente. Le sorelle parigine rispondevano un po' alla nostra richiesta di raccontarci un pochino quali attività hanno in corso e quello che ci ha detto la nostra sorella da Parigi è che cercano un po' di adattarsi alle necessità e di capire un pochino quali sono i bisogni dei diversi territori e delle differenti situazioni territoriali. Dal offrire supporto per fare i compiti, magari per chi non è di lingua francofona, al portare dei computer dove è necessario perché non sono presenti, a raccogliere degli oggetti di prima necessità, anche per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro per chi ancora lavora, e anche ha messo in luce il rapporto di collaborazione con i Gilets Noirs. Un compromesso. Vai, siamo No, no, tornati. scusami tu, Ari, è sempre difficile senza vedersi, ma no, volevo dire che insomma già questo ci dice quanto sia molto difficile standardizzare la cura e che quindi bisogna sempre un po' adattarsi alle circostanze. Grazie mille, Carlotta. On a commencé à travailler avec les brigades de Milan et on a repris finalement leur initiative et leur identité visuelle et politique. Donc c'est eux qui nous ont un peu aiguillés sur la manière dont ils se sont organisés et on a adapté en fonction de nos besoins en France. Ici en France, en tout cas en France, on travaille avec les autres groupes, notamment antifascistes. Présents en France et les groupes de l'autonomie de manière générale. Et particulièrement sur Paris, on essaie de travailler avec les Gilets Noirs qui sont des camarades de lutte, mais aussi les autres groupes politiques qui s'organisent dans la solidarité immédiate en dehors du Covid et de cette période d'épidémie, quoi. E ancora quello che avevamo anticipato un pochino prima, qui la sorella mette in luce il rapporto che c'è stato, la spinta che è stata data dal lavoro a Milano, di cui l'esperienza parigina si è nutrita all'inizio per poi ovviamente costruire la propria attività specifica sul territorio, intrecciando rapporti con i collettivi e gruppi antifascisti, autonomi e Gilets Noirs che sono presenti a Parigi e quindi dando vita poi a relazioni specifiche, un po' come diceva Carlotta, mettendo in luce quali sono poi le specificità di ogni contesto. Vado col terzo contributo? Vai, vai. Cette crise, elle fait émerger des inégalités, notamment éducatives, dans la mesure où le ministère de l'Éducation nationale a prévu un suivi pédagogique, mais qui ne pourra pas être effectif pour tous, puisque énormément d'enfants qui sont scolarisés n'ont ni accès à un ordinateur, ni accès à Internet, encore moins accès à des adultes qui peuvent leur expliquer les choses dans la langue française, voilà, ou ne serait-ce qu'un espace pour pouvoir travailler chez eux, puisque du coup cette épidémie, elle nous montre aussi toutes les inégalités sociales, qu'elles soient financières, de logement, auxquelles les gens sont confrontés, quoi. Voilà, on parle de confinement, de retour à soi. Il y en a qui font un peu le culte, l'apologie, qui viennent romantiser le confinement. Et puis il y en a d'autres qui vivent à 5 dans des studios de 10 mètres carrés, des chambres d'hôtel ou dans des gymnases. Et donc du coup, on leur demande à ces mêmes personnes qui ont des enfants de continuer à travailler. Donc voilà, ce confinement, cette épidémie, elle nous met face à toutes les inégalités sociales que cette société capitaliste a mis en œuvre. Elle montre aussi le traitement inégalitaire en fonction des métiers, c'est-à-dire que on ne va pas être protégé de la même manière que l'on soit éboueur, que l'on soit caissier, que l'on soit même aide-soignant par rapport aux médecins. On va privilégier en fait la protection des métiers les plus valorisés. Quello che ci dice la compagna è che questa emergenza ha messo in luce tutte le disuguaglianze presenti nella società e le ha fatte esplodere. le disuguaglianze costruite dalla società capitalista, dalle condizioni di lavoro, le condizioni abitative, dove emergono narrazioni ambivalenti da chi narra di una quarantena dorata nella pace degli spazi domestici a delle situazioni abitative molto più complesse e che mettono appunto in luce le disuguaglianze di base che la società capitalista ha costruito fino ad ora. Les difficultés qu'on rencontre, elles sont nombreuses. Dans un premier temps, c'est de mettre en place de la solidarité immédiate. Nos pratiques politiques habituelles ne prennent pas en compte ce champ-là, puisqu'on va plutôt être dans de la revendication, de la présence en manif, d'autres types d'organisations. Donc du coup, c'était mobiliser et ouvrir un réseau avec lequel on n'a pas forcément l'habitude de travailler, en tout cas sur la question de la solidarité. Donc ça a été plutôt la mise en place de ce projet politique. Il a été assez complexe pour nous. Puisque du coup il fallait solliciter le tissu associatif, voir un peu tout ce qui se faisait en termes d'autogestion solidaire. Et donc du coup voilà, ça a été le premier défi qu'on a relevé. Ensuite, une autre des difficultés, c'est du coup de pouvoir couvrir tout le territoire en Île-de-France. Parce que du coup, on dépend aussi de la volonté de nos volontaires qui rejoignent ce mouvement. Et donc, autant on peut avoir des brigades qui sont hyper concentrées dans des endroits où on a pas mal de militants, autant il y a des déserts en fait en Île-de-France, parce que du coup, soit notre message n'est pas passé, soit peu de gens s'organisent à l'échelle locale dans ces endroits. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer. E ritornate in diretta, io spero che voi capiate il francese, che non siate dipendenti dalle mie misere traduzioni velocissime, però in questo caso avrete capito che ci ha parlato delle difficoltà sul campo che le brigate francesi e parigine incontrano, da un lato dell'essersi in qualche modo costruite delle esperienze sul campo, perché non tutti i collettivi e le associazioni che fanno parte delle reti erano già attive su questi temi, e quindi anche la necessità di costruire nuovi saperi, nuove conoscenze, e anche l'altra difficoltà è quella di essere omogeneamente presenti sul territorio, che è una cosa molto complicata. Ascoltiamo l'ultimo contributo delle Brigate di Solidarietà Popolare francese. Et enfin, en termes de projet à venir, l'objectif là, c'est de construire un front des solidarités. C'est-à-dire que pour nous, il fallait politiser notre solidarité, identifier tous les acteurs de notre camp qui agissent au quotidien sur ces questions-là, se coordonner, et puis en fait passer au moment des revendications, c'est-à-dire mettre en cause l'État, demander des comptes à l'État, et surtout ne pas se faire poncer le peu de liberté qui nous reste. Du coup, les projets à venir, ça va être construire toute une stratégie d'attaque face à la restriction des libertés, face à la destruction du code du travail, face au capitalisme qui va vouloir se relever de cette période de confinement. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est voilà d'être à la hauteur de la crise sanitaire pour pouvoir mettre en cause l'État par la suite. E vi dico solo due parole anche su quest'ultimo stralcio, e però mi Ma offro per traduzioni dopo la trasmissione, per chi volesse. Faccio un servizio di traduzione, ma traduzioni simultanee. traduzione simultanea, evidentemente non sono riuscita a farla, ma tra la tecnica e il neurone attivo, però appunto raccolgo di quest'ultimo stralcio l'invito a politicizzare la solidarietà e mantenerci attive nella critica allo Stato e anche alle condizioni che hanno prodotto l'emergenza sanitaria, politicizzando le forme di cura e di solidarietà che sono in atto, che possiamo raccoglierlo come invito per proseguire la nostra discussione. Grazie Ari per questo super lavoro di tecnica e traduzione simultanea contemporanea. Veramente, cioè, oramai La due più stima, skills. La stima proprio alle stelle. Mandiamo un po' di musica? Sì, magari mentre carico la traccia musicale, se avete voglia di dare la pagina Facebook delle brigate parigine, capisco che sono lontane, ma non è detto che a qualche sorella possa essere utile avere un contatto anche in Francia. Sì, allora la pagina è Brigade Solidarietà Populaire, la trovate su Facebook. Non fatemi fare lo spelling, vi prego, sono Lo certa dico che io, lo dico io. riuscirete. Allora, perché voglio dire che non dobbiamo dare per scontato che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici Siano debbano sapere le plurilingue. lingue. Si può essere internazionalisti anche parlando proprio solo l'italiano ed è brigades, facile, solidarité. Con la E accentata, quella come Ma la tanto il Facebook non li non capisce le bene gli capisce. accenti, quindi non fa niente. Populaire, bello, eh? Bello. Populaire, secondo me è più Comunque, bello di popolare. se volevo dire che già parlare l'italiano è, Vabbè. Comunque come dire, è un un successo. successo. Vabbè. Pronte per Non un po' diamolo di per musica? scontato mai. Mai. Pronte, via. Vai. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Ya está todo plorat, ya está todo parlat. Tú en un forat negre, tot acabat. Zero ganes de moure del sofà. Llàgrimes llisquen dolor salat. T'ha fet petita i el s'ha fet gran. En mil trossets a tu t'ha trencat. Volia treure't del clot. Agafa'm ben fort, tu i jo ens menjarem el món. Anem a inventar-nos l'alegria. Poc a poc vas a renaixer cada dia. Porta fil i agulla, cosirem els descosits. Vaig a refer-te amiga, vaig a activar-te sentits. Anem a inventar-nos l'alegria. Poc a poc vas a renaixer cada dia. Porta fil i agulla, cosirem els descosits. Vaig a refer-te amiga, vaig a activar-te sentits. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Hacían les colegues, suman derrotes. Hacían les colegues, ensalven totes. Y plores, et seque les llagrimotes. Tornes a ser tú, que ningüe derrote. Sale el sol, tú sal pa la calle. Saca de tu vida todo el que te falla. Ganado el combate, lo ves. Has decidido quererte sin él. Ya van dos noches sin pensarle. Ya van dos noches sin llorarle. Ya van dos noches sin rogarle. Ya van dos noches. Ya van dos noches sin pensarle. Ya van dos noches sin llorarle. Ya van dos noches sin rogarle. Ya van dos noches. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Baila, baila, baila pa' acá. Baila, baila, ya no duele nada. Baila, baila, baila pa' acá. Baila pa' gozar, baila, baila, báilatelo. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. Báilatelo sola, Cari, lo vas a gozar. No lo necesitas, con él deja de brillar. Báilatelo sola, ríe y déjate llevar. Báilatelo sola, Cari, báilatelo ya. E eccoci tornate, tornato, tornati in diretta con Pupile, sbailatelo sola, un po' ballucchiando e canticchiando. Purtroppo è finito il cocktail di Marta perché adesso ci sarebbe stato benissimo un tintinnare di ghiaccio. Vero, dopo il pippone in francese e la danza scatenata, un cocktail ci stava molto bene. Infatti ora andrò a riempirmi il bicchiere di nuovo. Allora, per dare modo a Marta di poter riempire il bicchiere di nuovo senza l'ansia della diretta, ci tuffiamo in un'altra esperienza che arriva dai Paesi Baschi. Un gruppo di mutuo aiuto e rete di cura popolare a Durango. Testimonianza da Durango, comune nella provincia della Biscaglia, nella comunità autonoma dei Paesi Baschi. Con l'arrivo del virus Covid-19 e con questo l'arrivo della crisi della salute, in 5 giovani del nostro paese abbiamo cominciato ad organizzarci per far fronte alle diverse situazioni. Come prima cosa, insieme al Comune e alla Croce Rossa, abbiamo messo in moto un servizio di aiuto agli abitanti, tanto di ascolto psicologico quanto di fare la spesa per le persone più vulnerabili. Per questo si è creato un numero di telefono di riferimento, mentre è stata realizzata una campagna tanto nelle reti sociali quanto di attacchinaggi nel paese per la socializzazione dell'iniziativa. Poi, noi giovani che ci siamo organizzati, abbiamo concluso che, per la gravità della situazione, era necessario il coinvolgimento di diverse organizzazioni sociali. Per questo abbiamo considerato fondamentale la creazione di una rete di cura popolare, chiedendo la partecipazione ad una parte più ampia del movimento. Ad oggi, mentre l'iniziativa è iniziata col Comune e la Croce Rossa prosegue con più di 300 volontarie e volontari in un paese di circa 30.000 abitanti, cerchiamo di approfondire la presenza di cura con diverse iniziative. Da un lato abbiamo messo in moto una campagna per l'auto-organizzazione in ciascun edificio delle vicine, dei vicini e dei vicini per far fronte alla necessità di cura sia di anziani sia di bambine e bambini, necessaria per la gente che deve recarsi a lavoro. Dall'altro abbiamo iniziato un'altra campagna, più concentrata sullo svago, con diverse persone del villaggio che lavorano in ambito culturale, per la realizzazione di concerti, letture di poesia, eccetera, via streaming. Dopo la chiusura delle scuole ci siamo messi in contatto con diverse docenti perché le loro studenti possano contattarli nel caso abbiano dei dubbi sulle diverse discipline scolastiche, come storia, fisica, chimica, filosofia. Inoltre, seppur viviamo in un paese dove la sindacalizzazione è alta, abbiamo messo in moto una campagna perché quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno dubbi circa la loro situazione e non sono vicine o vicini al sindacato possano rivolgersi a noi. Devo aggiungere che ad oggi la rete di aiuto popolare è composta dalle 5 persone dell'inizio con l'aggiunta di solo altre 3 persone. Abbiamo deciso di non ingrandire oltre il gruppo, perché il nostro lavoro di oggi consiste principalmente nel coordinamento delle diverse idee che vengono, e per questo abbiamo pensato che fosse meglio un piccolo gruppo. Guardando al futuro, in primo luogo il nostro obiettivo è che la rete di cura popolare acquisisca più centralità in questi giorni fra gli abitanti e gli abitanti del paese. Pensiamo che sia fondamentale costruire questa rete di affidamento davanti alla più che probabile crisi economica e sociale che si avvicina a seguito del Covid-19. Sebbene al giorno d'oggi non abbiamo proposte politiche istituzionali concrete, pensiamo che questa crisi sia servita a far comprendere alle persone la centralità del lavoro riproduttivo e la necessità che questo venga svolto collettivamente. Per questo, e davanti alla crisi economica e sociale che si avvicina, crediamo che la cosa più urgente sia creare condizioni per affrontarla collettivamente, dando continuità alla rete di cura popolare con un sempre maggiore coinvolgimento della popolazione. Ed eccoci tornate, grazie, un grazie gigante a Ludo che ha raccolto e tradotto per noi e letto il contributo da Durango. Sì, peraltro io lo so, l'ho sentito nell'aria il vostro terrore che partisse un contributo di 10 minuti in Euskara, invece grazie Ludo per aver tradotto per noi e aver reso tutto molto più fruibile, ma anche e soprattutto per aver raccolto le testimonianze, come diceva Ari. Ultima testimonianza che ci arriva da oltremare, arriva da Londra, ci hanno mandato una testimonianza scritta che adesso io proverò a tradurvi simultaneamente, più facile di quello che faceva Ari, che doveva gestire la tecnica, ascoltare e tradurre. E questo contributo io ve lo dico subito, darai là allo sbrocco, vero? Evviva, vero? Momento sbrocco! Certo, sempre vero compagno, perché ve lo anticipo, poi andiamo a leggere questo contributo, è quello che dicevamo all'inizio, no? Cioè, questa è un'occasione per scardinare la dimensione della cura. Se questa occasione la manchiamo, non va tanto bene, cioè l'abbiamo proprio mancata male. Comunque vado, provo con questa traduzione simultanea, così magari si capisce anche un pochino di più perché ci sale lo sbrocco. Allora, intanto questa testimonianza ci arriva da Cooperation Town, che è sostanzialmente una cooperativa che fa parte di cooperative alimentari auto-organizzate, come dire, a partire proprio dalle comunità, dai quartieri della città di Londra. E la compagna che ci scrive che queste settimane sono state per lei occasioni di riflessione su questo tema, perché sono state settimane che lei ha passato a organizzare una distribuzione di massa di cibo nella sua zona e attraverso la sua cooperativa, e perché lo sappiamo, lo viviamo quotidianamente, questa quarantena sta facendo emergere, scusate adesso io sto parlando anche un po' così a ruota libera, però per intenderci sta facendo ovviamente emergere bisogni molto importanti, e quindi attualmente stanno inviando cibo gratuito a centinaia di persone tutte le settimane. La riflessione della compagna è su questo. Lei dice: siamo tutte donne, l'intera operazione è attualmente gestita da madri e da nonne, e che, come dire, continuano a svolgere i propri lavori. E questo, come dire, nel clima di emergenza che attraversiamo. Sono in contatto nell'organizzazione di questa assistenza dal basso, ovviamente con i servizi sociali, con le agenzie della città che si occupano di questo, e ancora una volta però la compagna ci tiene a sottolineare che la maggior parte delle persone con cui lei parla, dagli amministratori, ai amministratrici in verità, ai dirigenti dei servizi, sono tutte donne. Lei dice: abbiamo un gruppo molto importante di assistenti sociali che lavorano con noi, che portano il cibo a casa delle persone vulnerabili in auto, in bicicletta, a piedi. Il 90% ancora una volta sono donne. E lei dice: questa non è un'unicità del mio progetto di Cooperation Town. Io parlo ho parlato con tante altre persone, tante altre realtà che stanno svolgendo un lavoro simile al nostro, quindi un lavoro molto simile a quello delle brigate milanesi o parigine di cui abbiamo parlato finora, e tutto è coordinato e realizzato da donne. E lei dice: so che questa non è una sorpresa, però a me fa ribollire il sangue. Chiude così la sua riflessione. E questo perché diamo per scontato, no, che la cura stia in carico alle donne, e come dire, soggettività assimilabili. Sì, e non dimentichiamo che questo ha come effetto anche spesso che i lavori di cura sono lavori pagati molto meno di altri lavori. Se c'è una cosa che credo, insomma, ci sta insegnando questa quarantena, è quanto chi svolge lavori di cura stia svolgendo un lavoro preziosissimo in tutti i campi, da appunto pulire gli ospedali a prendersi cura degli anziani nelle residenze per anziani a portare i pasti, e purtroppo invece rimangono dei lavori spesso pagati molto poco. Speriamo che anche questo cambi. Sì, è quello che dicevamo all'inizio, no? Ora, scusatemi, poi sto cercando di contenere lo sbrocco, non so se si sente, però il tema, come dire, nel momento in cui parliamo di una rivoluzione del lavoro di cura, di cure ribelli, come dicono Madu e Zoe, di sovversione del lavoro di cura, ovviamente non stiamo parlando, come dire, solamente, neanche solo, solamente della condivisione all'interno dei ruoli della famiglia, del lavoro di cura. A noi non ci basta neanche dire: sta a casa il padre a curare i figli. Quello che oggi noi dovremmo essere capaci di costruire è

Sì. Veramente. Sì, forse la voglia di ballare mi ha un po' attenuato lo sbrocco, forse. No, la, gli ha dato anche altri rigoli in cui svilupparsi, Maria. Mm. Però sono stata elegante nello sbrocco, non trovate? As usual. Molto, molto, Marta, sempre. Bene, bene. E ora ci avviamo a un altro contributo che sottolinea un aspetto che attraversa tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e che contribuisce in modo particolare a fare della cura un oggetto politico e anche qualcosa di cui occuparci sia nel quotidiano sia nel collettivo, che è il tema della salute mentale. Sì, sì. Qualche tempo fa parlavamo con un amico che salutiamo, di UNIT, perché non abbiamo ancora detto grazie UNIT, grazie autistici. Grazie. Che, scusatemi, vado un po' a suggestioni, no? Che raccontava che questa situazione di zona rossa è molto simile a quello che è successo a New York dopo l'attacco alle Twin Towers, no? E che questa zona rossa a Manhattan aveva portato con sé delle conseguenze molto pesanti in termini proprio di stress post-traumatico su tutta la popolazione, ovviamente non solo dovuta all'attentato, ma anche proprio nella contingenza della segregazione, della solitudine a casa, no? E un pochino questa cosa la stiamo vedendo anche nel quotidiano di quello che sta succedendo soprattutto in Lombardia. Non ci sono ancora dei dati statistici attendibili, scusate, questa è la deformazione professionale che parla, però, come dire, la sensazione che l'aumento del TSO, così come i diversi casi di suicidio che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, dovuti proprio al Covid, alla paura, la paura della contaminazione, del contagio, delle conseguenze della solitudine, della cassa integrazione, sono concrete, no? Sono sì. Realtà. E allora potremmo lasciar raccontare un progetto che sta prendendo corpo legato alle brigate, la Brigata Basaglia, e possiamo sentire da loro che cosa, nel contesto che hai raccontato tu, Marta, sta prendendo piede come esperienza pratica di cura dal basso. Ciao a tutte, tutti, tutto. Sono Clara e faccio parte dell'esperienza delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, che è nata ai primi di marzo per un passaparola sui social, in cui moltissimi attivisti e attiviste che da molto tempo operano sul territorio di Milano hanno iniziato a pensare che cosa possiamo fare noi per questa situazione veramente eccezionale che stiamo vivendo e per poter dare il nostro contributo a questa cosa, anche perché siamo sempre stati nelle strade e abbiamo conosciamo il territorio e conosciamo anche molti quartieri e la complessità della composizione della popolazione milanese, diciamo. Oltre a questa esperienza sta nascendo anche un'altra brigata, la decima brigata, che si chiama Brigata Basaglia, che praticamente sarà una brigata di ascolto psicologico in onore anche al dottor Basaglia, che è colui che ha chiuso i manicomi, e quindi nasce anche proprio da un gruppo di psicologi e psicologhe contro la psichiatria. L'intento è quello di ripensare la cura in questo momento di isolamento forzato e anche di tragedia, perché ci sono tantissime persone che in questo momento si trovano chiuse a casa o che hanno perso un parente o che sono stati a contatto con persone che hanno contratto il virus, e di conseguenza comunque la paura sta prendendo piede. Ripensare la cura, che cosa vuol dire da noi, che comunque l'abbiamo criticata, nel senso che noi donne abbiamo criticato il concetto di cura proprio perché relegava a una dimensione più privata il nostro ruolo, perché proprio in questo momento è qualcosa di rivoluzionario, è qualcosa che ci tiene legati e legate insieme, nonostante le distanze, nonostante l'isolamento, ed è qualcosa che sta cercando, che può abbattere le barriere della solitudine, di un mondo comunque che aveva già questa impostazione. Secondo noi, infatti, questa esperienza potrebbe continuare anche dopo l'emergenza, ed è per questo anche che ci teniamo a fare in modo che se ne parli e che arrivi a più persone possibili, perché non è soltanto questo momento di emergenza che stiamo vivendo, ma probabilmente anche quando finirà questo momento di pandemia, di quarantena, scusate, dovremo risolvere, stare sempre, cioè creare legami e starci vicini, perché ci sono moltissime persone che hanno perso il lavoro, che perderanno il lavoro, che avranno difficoltà a pagare l'affitto, che avranno difficoltà a relazionarsi dopo lungo tempo con le persone, che cioè, avranno diverse difficoltà, e quindi a noi abbiamo anche questo compito. Ovviamente non siamo estranei a tutto questo, ma abbiamo cioè è proprio facendoci forza delle reti che costruiamo che possiamo affrontare in senso rivoluzionario anche questo. Le brigate volontarie di solidarietà hanno il motto di solidarietà, cura e comunità. E vi ringrazio a tutte e tutti, seguite la pagina e fateci sapere se vi interessa, potete unirvi al canale Brigata Basaglia Ascolto sul canale Telegram pubblico. Grazie e un bacio a tutti. Ed eccoci, grazie mille Brigata Basaglia, ed eccoci tornati in diretta. Eccoci, sì, parlavamo sì. Appunto di salute mentale, grazie alla Brigata Basaglia che si sta attivando su questo tema. Sì, allora io scusate, mi dico solo una parola, poi vi devo salutare, perché il lavoro di cura è una tortura, come dice la nostra... le nostre meravigliose putas domesticas. No, allora io ci tenevo intanto a ricordare che l'Italia è stato il primo paese ad abolire i manicomi. Ogni tanto delle cose inspiegabilmente, perché la legge Basaglia è stata, come dire, uno dei primissimi esempi di deistituzionalizzazione del tema della salute mentale. Detto questo, comunque non è che stiamo messi benissimo, possiamo dircelo, perché i reparti dove vengono fatti i TSO sono comunque molto spesso degli inferni. Detto questo, grazie alla Brigata Basaglia, proprio perché si prende cura di questo aspetto, no? Che è molto importante. Detto questo, finito col mio pippone, io mi stacco e vi saluto. E ciao Marta. Ciao Marta, ciao amiche, ciao a tutte e a tutti e tutto, e soprattutto ciao alle amiche, sorelle, compagne che sentirete, non faccio spoiler, ma che sentirete da qui a brevissimo. Vi amo molto. Crei aspettativa, amore. Brava Marta. Vi amo molto, tanto amore, a presto. A presto, ciao Marta. Ciao, ciao, ciao. E così sentite anche che Marta che mette giù il telefono, che così capite che è veramente tutto in diretta, tutto proprio molto in diretta. E su questo in realtà forse possiamo anticipare qualcosa che avverrà dopo, Carlotta, sì. Prima di mandare poi un altro contributo audio. Questo sì. Tema della salute mentale abbiamo deciso che sarà anche, ci accompagnerà nelle prossime puntate, e sicuramente una puntata stessa sarà oggetto di un approfondimento, discussione, di raccolta di contributi, sia per parlare della salute mentale in un momento di emergenza come questo, ma per estendere anche questa riflessione, come diceva Marta prima, a un contesto più ampio rispetto anche alla politicizzazione di questa questione. Esatto, e quindi anche su questo ovviamente contributi, riflessioni, domande sono benvenute per la nostra futura puntata, e adesso lasciamo invece la parola a Chiara. Tra l'altro ricordando che domani è il suo compleanno e la penseremo moltissimo, utilizziamo la radio per i fatti nostri. Cavolino, si poteva fare una canzone per Chiara, facciamo così. No, è adesso presto, perché il compleanno è domani. Settimana prossima, vero, vero. Settimana prossima, perché porta un po' male, già non siamo in una bella situazione. No. non sfiderei la sorte. E Chiara che ci parla di un aspetto, cioè da un punto di vista specifico per quanto riguarda il benessere mentale e il benessere psicologico, che è lo sguardo sulle esperienze che stanno facendo che ragazzi e ragazze, giusto Carlotta? Esatto, focus adolescenza. Andiamo. Eccoci, siamo qui con Chiara, compagna di InfoSex di Non Una di Meno Roma. Allora, inauguriamo in pratica una nuova rubrica che è Chiama le amiche lontane e intervistale alla radio. Chiara, oltre a essere così super meravigliosa come compagna, è anche psicologa e si occupa di famiglie ed adolescenti. E quindi volevamo chiedere a lei un po'... come se la passano gli adolescenti in questo frangente, un po' dimenticati perché si parla giustamente molto degli anziani che rischiano il contagio, dei bambini che giustamente devono uscire di casa, i nostri poveri teenagers rimangono un po' esclusi. Come stanno secondo te? Allora, intanto ciao a tutte, insomma grazie per avermi coinvolta in questa bellissima idea di radio che state portando avanti, insomma un bel modo per rimanere anche in contatto tra di noi nonostante la difficoltà nel vederci fisicamente, e quindi grazie mille. E allora, come stanno gli e le adolescenti? Intanto penso che sia molto interessante il fatto che stanno in qualche modo immaginando degli strumenti per raccontare come stanno. Esistono degli account Instagram che sono nati, in cui vengono condivisi dei racconti, delle storie, dei vissuti anonimi da parte soprattutto di ragazze e ragazzi che hanno un range di età tra i 14 e i 19 anni più o meno, e questo mi sembra molto interessante perché poi diciamo ci si preoccupa molto di parlare per loro spesso, no? Attraverso anche discorsi stereotipati che lasciano il tempo che trovano, quando invece la cosa più importante da fare per quel che riguarda la mia esperienza e quindi quello che io ho imparato è mettersi all'ascolto. Cioè mettersi all'ascolto dell'adolescenza vuol dire avere la capacità di fare un passo indietro rispetto alle certezze che uno pensa di aver acquisito attraverso le esperienze di vita che ha fatto, e per aprirsi a un'altra prospettiva ed accoglierla. Quindi chiunque sostiene che gli adolescenti di oggi, i millennials, chiamiamoli come ci pare, siano in qualche modo aridi e poco inclini a sviluppare un pensiero critico, forse non si è mai preso la briga di mettersi in silenzio e provare ad ascoltarli. Quindi ecco, questo intanto è il primo elemento per cui anche io, che provo in qualche modo a riflettere sui loro vissuti emotivi adesso, sto parlando in qualche modo per loro, insomma vediamo se magari se qualcuno di loro o qualcuno ascolterà sarà più o meno d'accordo con quello che dirò e magari si potrà aprire anche un dibattito su questo. Comunque cosa penso io di che cosa, quali potrebbero essere, diciamo, gli studi di questo momento? Innanzitutto penso soprattutto a chi quest'anno doveva affrontare gli esami di maturità. Sembra una banalità, diciamo, come tutte le fasi evolutive della vita, anche l'adolescenza si definisce a partire da delle sfide evolutive che rappresentano dei passaggi, a volte simbolicamente ritualistici, a volte no, che in qualche modo ci traghettano verso nuovi momenti della vita. L'esame di maturità è uno di questi, oggettivamente, contornato anche da tutta una serie di esperienze corollarie che si fanno, cioè nel senso non c'è solo l'esame con la pesantezza della valutazione o la paura della bocciatura piuttosto che del brutto voto o di non essere all'altezza di farlo, c'è anche la bellezza di condividerlo con gli altri e le altre, il fatto di sentirsi invece in qualche modo adeguati poi attraverso questo tipo di esperienza ad affrontare quello che ci sarà dopo, cioè no, il fatto che si cambia di fatto prospettiva rispetto al futuro e quindi chi decide deciderà di fare l'università, chi deciderà di seguire altri tipi di percorsi, in qualche modo beneficia del fatto di aver chiuso simbolicamente una parte della propria vita per accedere a quella che verrà dopo. Il fatto di non poterlo affrontare in termini esperienziali sicuramente potrebbe creare, non dico dei problemi a livello di adattamento psicologico, però comunque diciamo una deprivazione esperienziale molto forte, con tutto il portato emotivo di cui si caratterizza anche in termini di capacità di regolare le proprie emozioni, perché questo ci mette anche di fronte a questo tipo di sfida, cioè regolare la propria ansia, la propria paura e poi poterne gioire insieme agli altri e le altre. Penso anche, diciamo, questo rispetto all'esame, perché oggi mi sembra di aver letto che il NIUR propone di promuovere tutte e tutti e poi magari di fare un colloquio, diciamo, che potrebbe essere un sostitutivo della prova d'esame. Penso molto anche ai vissuti all'interno delle case, alle relazioni con i propri genitori, a quanto in verità in questa fase della vita l'importanza del mondo fuori e quindi del rapporto coi pari aiuta il processo di costituzione di un'identità propria, e quanto questa costruzione dell'identità propria debba in qualche modo anche essere caratterizzata da una sorta di distanziamento dalle figure genitoriali o dalle figure di caregiver primari. E in assenza di un mondo fuori accessibile e immediato diventa più difficile negoziare il proprio sé con i genitori, quindi mi immagino anche magari episodi conflittuali molto elevati, incapacità a volte di risoluzione e riparazione, perché anche i genitori poi purtroppo vivranno degli stati d'angoscia abbastanza elevati, e se non c'è lo spazio per poterne parlare, per poterli affrontare insieme e dargli un significato che è riconosciuto collettivamente da quel gruppo, quell'insieme di individui, si fa molta fatica. L'ultima cosa che voglio dire però è che, nonostante le difficoltà, riconosco che i ragazzi e le ragazze hanno delle risorse incredibili che riescono a mettere in campo, che a volte vanno anche al di là di quello che noi possiamo immaginare, delle risorse affettive, delle risorse interiori, delle risorse sociali e relazionali, per cui diciamo forse a volte sono loro che trovano anche delle vie e delle strategie di fuga e di, come posso dire, per affrontare questo momento difficile. L'importante veramente a volte è anche avere la capacità di stare in silenzio e mettersi all'ascolto di quello che è per loro importante e significativo. Ecco, se tu dovessi dare così un consiglietto a chi ha a che fare con gli e le adolescenti in questo momento, a vario genere titolo, perché appunto ci sono sicuramente i genitori, ma poi anche insegnanti che vedono gli studenti magari nelle lezioni online e così via, che consiglio daresti, oltre ad ascoltare, che mi pare il consiglio uno? Non lo so, io proverei magari a proporre delle attività di un certo tipo che possano mettere a valore magari dei loro aspetti specifici, che ne so, anche vedo molto l'uso di TikTok in questa cosa dei video, di video simpatici. Diciamo, promuovere nei ragazzi e nelle ragazze una sorta di percorso che li aiuti ad esprimere quello che per loro è vivere questo momento. Non è detto che si debba fare solo attraverso il classico tema a casa, piuttosto che la pagina di diario, si possono utilizzare anche strumenti di vario tipo, diciamo la tecnologia di oggi, per quanto possa essere in qualche modo anche fuoriera di elementi negativi, ci offre tante possibilità in questo senso. Io proverei a sfruttarle, diciamo, nel tentativo anche appunto di permettere loro di raccontare attraverso le proprie forme che cosa vuol dire per loro vivere questa cosa, per poi rielaborarla insieme, senza lasciarla nel vuoto in qualche modo, cioè assumersi la responsabilità di una costruzione collettiva di senso che abbia un valore per ognuno. Grazie Chiara. Torneremo sicuramente a risentirci perché vogliamo dedicare una puntata, questo è uno spoiler, tutta alla salute mentale, quindi il tuo aiuto sarà super prezioso. Salute mentale. Vabbè, facciamo anche una sui sogni, che mi sembra aver capito che è un tema caldo. Un tema caldo in quarantena, tutte sogniamo credo un po' di più, segnateveli amiche a casa, perché poi Chiara ci aiuterà su questo. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Bene.

Prima di tutto perché è bellissimo che tu sia qua e secondo perché è una sorpresa per noi dopo. Vuoi anticiparla tu la sorpresa? Anticipiamo, sì. Intanto io vi mando un enorme bacio e vi ringrazio tantissimo perché questa radio è fantastica. In un momento come questo ci vuole tanta energia tra femminista e femminista e stare insieme, quindi grazie. Grazie a te, a te, ma grazie mille, mille, mille a te. E sì, quindi io praticamente vi ringrazio doppiamente perché ho avuto la possibilità di mandarmi un contributo, un mix, e quindi sono stata molto contenta perché è sempre bello fare le cose con le compagne a cui vuoi bene, e quindi insomma anche in questi momenti ci sentiamo vicine visto che non ci possiamo abbracciare. Infatti quando io e Atena vi saluteremo partirà la playlist, il lavoro musicale che ha preparato Atena per noi, e quindi in qualche modo ci terrà compagnia tutta la serata. Sì, infatti questa cosa è molto carina. Sì, io in realtà volevo iniziare un attimo da me e da come mi sto vivendo questa quarantena, approfittando di questo spazio. Grazie. Perché fondamentalmente io in questo periodo sto disegnando, suonando, cucinando e pigioneggiando, perché come sappiamo bene, insomma, stare a casa non è uguale per tutto, e nel mio caso, a parte un enorme sclero per il lavoro e conseguentemente per i soldi, perché insomma lavorare in campo artistico in maniera autonoma in Italia non è già facile in un periodo normale, o comunque in un periodo normale è una brutta parola, in un periodo diciamo comune, e in questo momento emergenziale ancora meno. Però tutto sommato io sto passando una quarantena molto tranquilla a casa con la mia compagna e connessa con altri pezzi di cuore che sono a Bologna, a casa dei miei e non solo. E quindi diciamo che dal mio punto di vista sicuramente è una quarantena un po' privilegiata rispetto anche a molte persone alle quali mi sento vicina e anche complice. Cioè chi una casa non ce l'ha, chi è in carcere, chi è costretto in casa in situazioni di violenza maschile e anche in situazioni di violenza verso il proprio genere. Quindi insomma ci sono tanti contesti in cui purtroppo una casa non è un posto sicuro come nell'immaginario invece che viene propagandato continuamente, che ci viene propagandato continuamente, viene dipinta. Esattamente, grazie Atena di ricordarcelo che non tutte viviamo le stesse situazioni, le case non sono sempre i luoghi sicuri, e penso che però allo stesso tempo condividere anche le nostre esperienze sia importante anche per capire come stiamo vivendo, cosa i nostri corpi stanno vivendo. Sì, infatti anche perché comunque nella lotta, come nella lotta, le esperienze sono diverse, effettivamente poi anche in questi momenti, diciamo, in cui fisicamente i nostri corpi devono essere distanti, le condizioni sono diverse, e quindi rimanere connesse nonostante tutto è una grande forza che abbiamo, e quindi di questo dobbiamo essere sicuramente contente. Io onestamente un po' ho dei timori per il dopo, perché insomma, cioè, come sappiamo, noi a questa, cioè tra noi insomma lo sappiamo bene che questa normalità non ci vogliamo tornare, perché comunque se era un problema la normalità di prima, rischiamo che la normalità con le nuove regole, il strascico del Covid, sia anche lievemente peggio. Però diciamo che i timori e le preoccupazioni si trasformano, o cerchiamo di trasformarle, in voglia di fare ancora di più in dopo, e quindi insomma restiamo unite sperando di resistere e costruire insieme ancora per tanto tempo, e soprattutto questo è un mio proprio augurio personale, di rivederci tutte presto in un bel corteo, in una bella serata, wow, in una bella cosa nostra. Questo è un bellissimo augurio, e anticipiamo che la traccia audio che hai preparato per noi, che ci regali dopo, si chiama proprio Amori Lucia. Esatto, perché insomma quello è un po' il sentimento che mi ha spinto, insomma, mentre registravo pensavo a chi mi aveva chiesto, comunque per cosa la stavo facendo, e mi sono un po' sentita un po' in corteo insieme, quindi è stato bello. Questa immagine è bellissima. Sì, infatti. Io, cioè, in quel senso, prima di parlarvi un attimo velocemente della playlist proprio, cioè, volevo appunto un po' anche pensare cioè in questo senso qui parlo, in questo momento parlo da artista, diciamo, e da e del mio vissuto, diciamo, personale rispetto a una questione lavorativa e o comunque con le cose che faccio, quindi dipingere, suonare e diciamo creare situazioni di arte di vario tipo. E l'impossibilità in questo momento, perché non tutte le persone hanno uno studio a casa, l'impossibilità di andare nel mio studio che io ho a Bologna con Elastico, in questo posto che si chiama Elastico, con anche sorelle e compagni artisti e attiviste a cui mando un grande bacio. Questa cosa rallenta anche, cioè rallenta e rende difficile anche il processo non solo creativo ma anche di restituzione, cioè io in questo momento la quarantena la vivo attraverso i disegni, attraverso la musica, attraverso quello che faccio in generale, quindi sto rimodulando anche un po' rispetto ai mezzi, infatti per dire anche il mix è stato registrato senza casse, perché le casse a casa della mia compagna non ce l'ho purtroppo, e anche quando stavo disegnando l'altro giorno, insomma è interessante anche vedere la capacità di riadattamento anche in condizioni, appunto come ho detto prima, privilegiate, quindi più semplici di altre, però insomma come questa condizione non è poi questo stare a casa rilassato che alla fine ci vogliono rovinare, insomma. E io come ultima cosa prima di parlare della playlist vorrei dire anche che questo bombardamento che ci fanno continuo su questa cosa che siamo in guerra non ci aiuta a livello mentale e a livello di ripresa, perché credo che invece sia importante sapere dove siamo e che momento stiamo vivendo, e quindi che questo momento emergenziale sicuramente è causa di un virus, ma che è causa anche di tante falle del nostro sistema amministrativo e burocratico e governativo, di gente che si è mangiata i soldi. Io sono del sud e penso ai miei ospedali, alla mia gente, e con paura, perché se questa cosa arrivasse al sud, in Calabria o comunque in generale al sud, insomma noi non so se siamo, quanto siamo pronti a livello proprio strutturale anche ospedaliero, quindi in questo senso anche un grande abbraccio a chi invece sta continuando a lavorare e sta in grande difficoltà, quindi penso alle cassiere, alle mediche, ai medici, alle infermiere, ai farmacisti, a tutte le persone che comunque in qualche modo si trovano in balia di questa situazione e stanno resistendo, diciamo, gioco forte. Ci uniamo tutte, un abbraccio a chiunque lavori nella sanità e si sta prendendo cura. E ci auguriamo una rivoluzione subito dopo. Esatto, e ci auguriamo una rivoluzione, come dicevi tu prima, non è la normalità, quello che vogliamo, insomma. Esatto. Rispetto alla playlist, che vi dico due cose veloci, che poi ci salutiamo e vi lascio insomma, ad ascoltarvi questo regaletto che vi ho fatto. Anche lì, infatti, pensando a voi, a noi, a cose belle che facciamo, ci sono dei pezzi che sono fortemente legati anche a Nudm, a Non Una di Meno, ad altre reti, comunque femministe, transfemministe, come Azealia Banks, Sara Ebbe, Bomba Stereo, e c'è una base di un violatore in Tu Camino, perché credo che in qualche modo sia stato in questo periodo, diciamo, un grande connettore anche con il movimento transnazionale, con il movimento globale. Ci sono anche altri pezzi che sono forse più un bagaglio mio, perché io ho vissuto in camion, ho girato con il mio sound per 15 anni in un contesto, diciamo, di techno travel, e quindi sono più pezzi elettro che ho remixato da Lady Wolfs, Vital X, Connettivo Trunstast e altri brani, e quindi è un po', diciamo, un mix tra i miei cuori. Wow, Atena, mi sembra un regalo generosissimo e bellissimo, grazie di essere qua con noi. Se ti va, stai con me in diretta, così non mi lasci sola, e facciamo i saluti, chiudiamo la puntata insieme, prima di appunto lanciare la tua playlist, e che spero accompagni tutti in un venerdì sera come lo desiderano, considerando il contesto. E un abbraccio enorme, grazie, con Radio Lotto tutto l'anno, ci sentiamo lunedì. Grazie mille, Atena, e un abbraccio gigante. Ciao, siamo rivolta, un bacio. Un bacio enorme. A te. leader. I encourage you from time to time, but always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. E ora torniamo un secondo in diretta per dire, vi mando davvero la playlist, scusate, ci stava un errore alla fine, scusami anche tu Atena, andiamo. No, figurati. I encourage you from time to time, but always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so. You must understand that my techno is minimal. I play more minimal than everybody. Listen to my tick, tick, tick, tick tocks. What? You call your music minimal, but it, I call it simple.

We'll be right back. come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Make my day. Make my day.